Daniele Torsiello scrive questa lista di 5 persone serie: Paul Connett, non so, Stefano Rogota, ma no, Rodotà, Giovanni Favia o Favia, poi non so, 3 persone, no. 11 Hours Ago, 4 e Like. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Laura Faggin e un saluto da Carmelo Lauricella. Senti come parlo, come Laura Faggin. Che siamo già fuori. Raga, sono le 5:15, cioè, precise, ora dell'International Bureau of Weights and Measures di Parigi. Prossimo riferimento mondiale per il tempo al posto dell'obsoleto meridiano di Greenwich. Greenwich. Però non ho capito perché questo nome inglese, l'istituzione francese, capito? Perché è un'istituzione internazionale, International Bureau, eccetera. Ah, certo, certo. Se no col cavolo che i francesi lo chiamavano così, capito? I francesi sono: basta la parola inglese, vabbè, il computer si chiama l'ordinateur. Questo qui è Vincent Cassel, che come noto, mentre si libera sulla tazza parlando su Skype col suo specchio touchpad con Monica, tutta svaccata sul lettone king size nell'altra parte del palazzo, basta parola inglese, lui sostiene la causa del francese, lingua di tutta l'Europa, no? Basta, infatti basta, dai capa, che sennò poi Monica deve rispondere su cose come le use delle parole inglese nelle state europee moderne, che è un argomento poco consono a lei, e poi lui sai che non la sopporta più. Basta Monica, basta, je veux une petite fille, basta scettaccia italiana. Ma che scettaccia? Il settaccio italiano, ma cos'è? No, è la scettaccia, la pesce mammifera con la testa gigante. Ah, il cetaccio, ma come? Ma come fa a paragonare sua moglie a un cetaccio? È la donna più bella del mondo. Ma tu l'hai mai vista nel letto, che ti occupa tutto il letto? Vabbè, basta donna più bella, basta, datemi a moi una scessa, basta, basta scettaccia, datemi una scessa. No, del dente, e quindi conseguente anche rovamicina e tutto l'armamentario. Basta. Vabbè, basta anche con alcune credenze che in qualche anfratto della società persistono stoicamente, tipo le presunte qualità della merluzzina, l'olio di pesce. Sei contento? No, allora, tanto la merluzzina io non l'ho mai sentita. Si chiama così. In TV adesso c'è una pubblicità che dicono che sa di piede vecchio. Ma cosa? L'olio di fegato di merluzzo. Vabbè, non lo so, però guarda che l'olio di fegato di merluzzo è stato l'incubo per moltissimi bambini, E succede ancora adesso che in tante culture si dia un bel cucchiaio di olio di fegato di merluzzo per far crescere Roba bene che il quando bambino. Ero piccolo io già sembrava vecchia, antica. E invece nel nord Europa si fa ancora. Comunque succede che in nord Europa lo diano ancora per via delle qualità dell'acido docosahexaenoico. L'acido docosahexaenoico, che è presente nei pesci, solo che poi adesso, nel 2011, no? Anche Moby Dick c'aveva l'acido. No, perché è un mammifero, un pesce, cetacea. Allora, con tutto il tempo che hanno avuto gli scienziati per vedere se era vero o no che l'olio di fegato di merluzzo facesse bene o no ai bambini, hanno fatto l'esperimento adesso. Hanno fatto un riempito di merluzzina a un gruppo di bambini per anni e anni e non erano mica sorteggiati o volontari. Ma pagavano, che sfiga i genitori. Era? Ma dai, eh ma sì, come? Pagavano i genitori, pagavano ma i genitori. Ma in lo so, però non solo. Senti qua, questi bambini, dopo 7 anni di razione K mattutina a base di merluzzina, li hanno misurati in fatto di intelligenza ed erano tutti nella media. Quindi la scienza ha dichiarato false le qualità dell'olio di merluzzo. Vabbè, è una fregatura. Sono i sacrifici, però, nel nome della scienza, questi poveri bambini. Però i genitori hanno incassato, non è giusto. Ma non è questo il punto. Ma come K? Non è il punto? Ma vedi che anche Tito interviene, non è il punto. Noi stavamo semplicemente dicendo che questo esperimento avrebbero dovuto farlo anni e anni fa. Così avrebbero evitato tante sofferenze a tanti bambini di tutto il mondo. È giusto, e io consiglio una class action. Ma contro chi? Contro i merluzzi? Ma certo, con un buon avvocato puoi anche farcela, Tu che sei stato? Sempre mio amico. Sempre al mio fianco. Sempre vicino. Ora che sei al fianco di un altro bambino, stai a sentire ciò che ti dico. Spero proprio che tu ti ritrovi in un bel banco di spine di rovi, sempre più stupido, sempre più stanco, con un orango compagno di banco, con 546 denti, tutti cariati, tutti ridenti, che tutto il giorno ti vuole baciare, con una puzza terribile in bocca. E se mi chiedi se puoi ritornare, io ti presento questa filastrocca, che ora finisce dicendo così: ma sentite un po' questa storia della class action. No. Della? Della class action. Class action. Claxon. Sì. Ma mettete che puta caso domani scoprissero che i finocchi cotti non fanno bene. Non fanno bene. Non dico che fanno male, ma che non fanno particolarmente bene, non sono salutari. Sì, tipo l'olio di ricino, no, l'olio di fegato di merluzzo. Sì, ricino è un'altra cosa, sì, è un'altra storia. Sì, sì, sì. In questo caso potremmo chiedere una moratoria definitiva sui finocchi cotti. Sì. E quindi nel mondo nessuno sarebbe più obbligato a mangiarli, no? Ma perché? Scusa, guarda che a molta gente piacciono i finocchi cotti. Sei solo tu che sei schifiltoso, non li mangi, però insomma, no, è il tuo problema. Ma scusate, lo sapete già! Finocchi cotti senza neanche un filo d'olio. Ah, vabbè, lo so. Neanche l'olio di girasole. L'olio di merluzzo. Ma chi li mangia quelli lì? Li mangia mio nonno tutti intubati in ospedale. Vabbè, adesso comunque guarda, nessuno farà mai una ricerca sui veri effetti dei finocchi cotti, per cui mettiti il cuore in pace, non è che facciano bene o male. Vabbè, Massimo, allora, liberano un po', no? Diciamo che avete ragione voi. Allora, perché sull'olio di merluzzo hanno fatto la ricerca? C'è un'ingiustizia, no? Vabbè, rassegniamoci, un'ingiustizia. Guardate che poi se c'è un problema di carie, cioè io posso farmi volontario, A far cosa? Scusate, io mangio da anni e anni sempre solo finocchi cotti, senza olio. Se mi studiano e vedono che non sto particolarmente bene, questo mi sembra evidente, certo. Potrà diventare il caso conclamato dell'Inuit. Gli eschimesi, l'Inuit. Cosa vuoi dire, Inuit. Bambino Alberto? Potrà diventare il caso conclamato dell'Unione degli industriali italiani. Del lunedì, forse. Che i finocchi non servono a niente, no? No, voleva dire inutilità. Vabbè. Sono anche pronto a sacrificarmi per la causa. Bravo, sì. Anche perché i sacrifici li ho già fatti e li sto ancora facendo e li farò. Ma se mangi le cose al curry che ti prepara Freddy, smettila di fare il piangina. No, perché... Hai sbagliato tutto, io non sono un piangina. No, piangina. Non è vero, io faccio la vittima perché sono una vittima. Ma fai la vittima, quindi, fai la vittima. No, quindi non la faccio la vittima, visto che lo so. Vabbè, qui tautologia a profusione. Ma proprio. Cosa dici? Ma di nuovo, Drago, ma certe parole, tautologia. Non siamo sulla filodiffusione. Ho capito che non siamo. Ci ascoltano i commercialisti, hai capito? Diamo di tregua qualche secondo, no? Tautologia. Parla di spread, di IVA, di vabbè, quello lì, sì, vabbè. Spaventi il pubblico così. Vabbè, allora io adesso, scusate, mi metto su internet a contattare tutte le facoltà universitarie del mondo, no? Sì. Per chiedere di guardare su YouTube il video di finocchi cotti. Ecco. Così magari qualcuno fa la ricerca, no? Allora si monta la faccenda della class action, no? Sì, ma class action, ma contro chi? Legittimata! Sì, ma class action, ma contro chi? Contro i finocchi? Sì! Ma come? Vabbè, buona fortuna allora. Però, per chiarire, non sono mica omofobo, Nell'aria si insinua un profumino, mi stuzzica il naso, ma cos'è? Sa un po' di letame, mi viene una fame immensa, aspetta, non me. Eccomi in fila ad aspettare, si fanno scommesse sul menù, chi dice fagioli, chi dice bambini, biscotti, coniglio di cane, ma il cuoco in vacanza, c'è una sola pietanza. Finocchi cotti, finocchi cotti, finocchi cotti per me, per te e per tutti voi, perché i finocchi cotti sono un fatto collettivo. Sì. Le persone basta serie. Basta con queste persone serie. Qui a leggere gli elenchi che ci mandate, più. Cari ascoltatori, ma c'è da addormentarsi. Una cena con Tabacci, Napolitano, Trulli, Daverio e Enzo Catania. Ma qual è Trulli? Enzo Catania è quello del... Sì, è un attore, no? Quello che è Antonio Catania, quello che arrivava con l'aereo a Mediterraneo e diceva minchia tre anni siete... Antonio Catania chi è? No, è questo, minchia tre Enzo anni Catania? Ma che ne so?